Yo. Overkill il morto dio gli è la guerra. Facciamo saltare con gli ottato pezzi di merda. Yes. Cammino tra la gente con un fare, con un passo disinvolto. Col titolo nello zaino, questa che fia sopra il volto. Faccio il botto, vedi doppio da quell'occhio, perché scoprio le pupille come con un grammo doppio. E non mi ritocco, plastico messo a posto nelle tasche. Un giubbotto di C4, trielina, mixer di classe. Tanta voglia di gridare verso il cielo, per poi tingere di sangue le facce di ogni straniero. Qua davvero vedo nero con il cuore nel Corano. E non rinnego la mia gente con un tasto rosso in mano. E se lo premo, immagina l'Ariston di Sanremo. Quanto sangue sulle scale mentre c'è il teatro pieno. Io non temo kamikaze per davvero. Testa fusa, spillo back per la punta al cimitero. Maxi flocchi mica zero, se spero che questo leghi al signore. Death fat, 16 barre, poi premo il detonatore. In mezzo a questa gente siamo kamikaze. L'epicentro della scena ma dalle terrazze. Si muove in ogni stazione, se il piano è in esecuzione. Ci portiamo al creatore con sta bomba che esplode. In mezzo a questa gente siamo kamikaze. L'epicentro della scena ma dalle terrazze. Si muove in ogni stazione, overkill se ci senti. Pronti a fare saltare in aria tutti i presenti. E poi saltate in aria come le puttane afghane. Tagliamo le braccia solo per farvele alzare. Vi lasciamo col pensare che sei un lirico estremismo. Tecnici su quattro, overkill mega terrorismo. È un sisma, cataclisma, kamikaze gira rizza. Fetti in pasta e si organizza, dopo chiedi chi è che ha pizza. In mezzo a questa pista con gli invitati in lista. Sciolgo fiale di composti, bicchieri colmi di crista. Christian vide pista, fra carro non rallenta. Soccato nella casa scioglie le sue fondamenta. Fondamentalmente siamo fondamentalisti. Kamikaze su sti suoni, kamikaze sui dischi. E voi poveri cristi, mettetevi al riparo. Quando sparo sopra i piatti, pezzi fatti di curaro. E qua vi sembra strano che adesso ci salutiamo. Con l'innesco nella mano e ci vediamo più lontano. In mezzo a questa gente siamo kamikaze. L'epicentro della scena ma dalle terrazze. Si muove in ogni stazione, se il piano è in esecuzione. Vi portiamo al creatore con sta bomba che esplode. In mezzo a questa gente siamo kamikaze. L'epicentro della scena ma dalle terrazze. Si muove in ogni stazione, overkill se ci senti. Pronti a fare saltare in aria tutti i presenti. يا سيدي انت مواطن ايراني.